Con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Tenetevi forte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, allacciate le cinture, come vi dico qualche volta, perché in particolare anche questa settimana veramente sarà un otto volante con tutte le incredibili notizie che si sono susseguite in questi giorni. Voi sapete che il sabato è il mio appuntamento con voi, voi con me, per commentare le tante cose che sono successe nei giorni precedenti, e questa volta ci sarà naturalmente sempre il malcapitato opinionista estemporaneo, donna, uomo che sia, perché sarà ancora più psichedelico delle altre volte, questo passaggio costante repentino da una notizia all'altra. Lo sapete che poi alla fine al netto diventano più o meno 45 minuti fino alle 15 tra pubblicità, interruzioni eccetera eccetera, quindi insomma tante cose da congestionare insieme, ma naturalmente chiedo anche a voi di avere i vostri neuroni sempre attenti e reattivi. Il numero verde per le vostre opinioni, libere opinioni, naturalmente molti lo conoscete, altri no, è questo 800 24 00 24. Numero verde quindi gratuito, potete chiamare senza neanche spendere un cent, e poi naturalmente anche, come vi dico, ecologico, perché evitate di disperdere energie, pensieri, opinioni, tempo altrove, lo convogliate invece qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi io già inizierei come sempre a farvi un brevissimo riassunto delle tante notizie, nel senso alcune di quelle principali, poi naturalmente voi potete mettere sul braciere qualsiasi altro fatto che sia accaduto in questi giorni. Ovviamente un occhio anche all'estero, con questo colpo di Stato in Egitto, quello che sta succedendo. Si è parlato tanto anche l'anno scorso di primavere arabe, anche qui sembrava che con Morsi fosse stata anche lì vinta la primavera araba, invece siamo in estate e già le cose sono cambiate, non si capisce bene dove si andrà a finire. Il potere in questo momento è in mano ai militari, che sono quelli che nei paesi arabi, anche in Egitto, uno può pensare paradossalmente, ma hanno sempre più o meno cercato di essere baluardo della laicità, al di là che poi siano state comunque dittature. Comunque anche chi fosse poco sensibile ai fatti esteri sappia che con questa situazione tesissima in Egitto c'è l'effetto carburanti e quindi la benzina sale. La crisi che ci riguarda, che riguarda l'Europa, che riguarda in particolare noi, l'Unione Europea ha concesso all'Italia più flessibilità sui conti pubblici, quindi il Presidente del Consiglio Letta ha esultato, ha detto siamo riusciti ad avere un risultato straordinario, però Bruxelles subito precisa, attenzione, nessun margine di flessibilità se il deficit resta al 2,9%, quindi staremo a vedere che margine di manovra si potrà veramente avere. Per quanto riguarda la politica in senso stretto, quella dei partiti, quella parlamentare, la guerra fredda nel PD tra Renzi e il cosiddetto correntone dei big. Il Movimento 5 Stelle nel frattempo ha mantenuto la parola, ha restituito allo Stato parte delle indennità e delle diarie dei parlamentari che non sono state spese, un assegno insomma da oltre 1.500.000 euro, mica poca cosa. Il Datagate, questo scandalo mondiale che parte ovviamente dagli Stati Uniti, che si arricchisce di nuovi episodi con Snowden, la cosiddetta talpa che sta cercando asilo un po' dappertutto, ieri in altri 6 paesi, ma non sono stati questa volta resi pubblici i nomi delle nazioni a cui ha chiesto asilo, perché dicono i suoi sostenitori finisce che poi gli Stati Uniti intervengono e lo boicottano. Nel frattempo la ministra Bonino ha detto a noi Italia non ci ha toccato il Datagate e comunque non diamo asilo a Snowden. Anche su questo si sono espresse le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Mi piacerebbe sapere anche voi, dareste asilo a un personaggio come Edward Snowden? E c'è stata anche una cosa molto importante, sempre in ambito politico-industriale, come possiamo dire, con la Presidente della Camera Boldrini, che ha declinato l'invito dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne a fare visita allo stabilimento in Val di Sangro. Ha detto: perché ho un altro impegno istituzionale, ma poi in una lettera che ha scritto a Marchionne ha voluto anche sottolineare che lei non ci sta alla gara al ribasso dei diritti. E stavo guardando adesso in particolare sui siti online, per esempio il Corriere della Sera, che Boldrini è sotto attacco abbastanza bipartisan, nel senso c'è un attacco forte per esempio di Maria Stella Gelmini del PDL, che dice: il gesto della Presidente contro una grande impresa nazionale, la stragrande maggioranza dei suoi lavoratori, sembra purtroppo voler continuare quel percorso decisivo sbagliato e anche minoritario della scorsa legislatura. E Citafini, e contro la mossa della Boldrini anche, per esempio, Massimo Mucchetti, presidente PD della Commissione Industria del Senato, che dice un'occasione mancata. C'è un esponente del FIM CISL, Giuseppe Farina, segretario generale della FIM CISL, che dice soprattutto ha sbagliato nel passaggio sulla gara a ribasso sui diritti, non sa di cosa parla. Cosa ne pensate anche voi, anche su questo? Poi leggeremo qualche opinione sul Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sulla mossa del presidente della Camera Boldrini. Poi c'è stato questo addio all'abolizione delle province, nel senso che la Consulta ha detto è incostituzionale, poi però il governo, per far vedere la buona volontà, insomma, ha detto no, noi salvaguarderemo gli stipendi e l'occupazione di chi lavora nelle province, vorrei sapere come, però intendiamo abolirle, ha presentato questo disegno di legge. Vedremo come va a finire, insomma, tantissime le notizie, queste sono soltanto alcune, ma vogliamo dirci come sempre ogni settimana che cosa ci conferma, che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Allora, diciamo che quando si divisero disillusero moltissime persone, potevano sembrare, diciamo, un duo, una coppia, qualcuno ha definito trash, kitsch, però davano così l'illusione, la speranza che l'amore eterno ci fosse. Poi a un certo punto, per anche una disgrazia nella loro vita e poi dissidi eccetera eccetera, si separarono e questo portò veramente una disillusione collettiva nell'amore. Albano e Romina, vi ricordate, no? La coppia per antonomasia, per eccellenza, si erano conosciuti da ragazzini, vivevano in campagna, trovavano questo equilibrio, questo amore sempre rinfocolato, poi si divisero per l'appunto. Pare invece, vedete che a volte le cose cambiano, ci sono delle svolte, che torneranno insieme, non si capisce se amorosamente o solo per questioni professionali, e per cantare Felicità a Mosca e fare un concerto a Mosca. E Albano che cosa ha detto? Dice sì, ci sono le locandine in giro per Mosca di questa riunione tra di noi per due concerti. Dice però io non ne so niente, però rendiamo un omaggio e speriamo che sia così. Felicità, tenersi per mano, andare lontano, la felicità, e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità, il cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa. E ora chiederò anche all'opinionista estemporaneo che vi presenterò tra poco se ha gradito questo omaggio, perché signore e signori, l'opinionista estemporanea di oggi è... Sarina Biraghi, direttrice del quotidiano Il Tempo. Sarina, hai apprezzato, diciamo, questo revival? Intanto buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno a te. Nella veste di malcapitata, come hai descritto tu all'inizio, dico che sì, l'ho gradito, perché, e anche sorridendo, perché devo dirti che è la prima notizia che ho letto sfogliando i giornali oggi. Davvero? Guarda sì, che coincidenza. Perché mi ha colpito. Ecco, ma chissà, chissà, chissà. Chissà no? Se è vero, chissà se accadrà. Insomma, dopo 14 anni di divorzio, 18 anni dall'ultima esibizione insieme, insomma, fa notizia questa riappacificazione sul palco, però a volte chissà, anche per professione, per... Sì, quello è più probabile, però i sentimentali, no? Sperano che sotto sotto sì, ci sia. Sperano che tutto sommato qualcosa poi di più. Si è rivista Romina in questi giorni, è vero, ha fatto film, un film. Quindi un po' è tornata, perché lei è quella che era un po' più sparita rispetto ad Albano. Sì, sì, che lui continuava a cantare, a essere presente in manifestazioni, Sanremo, cose varie. Beh, insomma, era una coppia che ci ha fatto sognare. Ci ha fatto sognare. Sì, ha fatto magari anche qualcuno sorridere, ma ha fatto sicuramente sognare. Ma tutto, insomma, c'era tutto. Poi, tanto per dimostrare invece che ci sono sempre le mezze stagioni, femminicidi vari anche con questa settimana, una donna è stata buttata giù dal nono piano dicendo che si era suicidata, Bravi, Cino Cuneo, un uomo è andato dall'ex moglie che era lì con le amiche, prima le ha tirato un pugno, poi se n'è andato, uno dice vabbè, è tornato e le ha sparato con la pistola e l'ha uccisa. E poi c'è questo caso veramente folle di un processo che si sta tenendo a Teramo, di quest'uomo che era stato condannato all'ergastolo in primo grado per omicidio volontario dell'ex convivente, l'aveva anche prima strangolata, poi fatta a pezzi, poi aveva portato a pezzetti in uno zaino dentro sacchetti il suo corpo. E perché si deve rifare adesso improvvisamente, è stata annullata questa sentenza, si deve rifare perché due giudici della giuria popolare si erano assentati qualche giorno per partecipare a delle altri processi, delle altre udienze, e quindi per questo cavillo è stato annullato l'ergastolo, si dovrà ricominciare tutto da capo nei prossimi mesi. Pensate un po' come funziona la giustizia italiana, Sarina, no? Sì, fa parte delle cose strane della nostra giustizia, no? Ricominciare perché magari un giudice è assente o è in ferie o è stato diciamo così trasferito ad altra sede, si ricomincia da capo. Non c'è nessuno sì. che prende in mano le cose e si va avanti. Incredibile. Anche diventa veramente ridicolo poi quando siamo di fronte a un reo confesso o comunque a un colpevole certo, no? Sembra impossibile che per dare una pena certa ci voglia tanto tempo. Sarina, io adesso ti dicevo malcapitata perché ti sottoporrò a varie prove. Adesso ti faccio sentire una cosa, tu mi devi dire che cos'è, va bene? Sei pronta? Sei sì. concentrata? Va bene. Ma era un gioco a quiz questa trasmissione, no? Ma sai che un po' lo è, ma diciamo, sulle notizie. Adesso ti faccio sentire, attenzione. Che cos'è, mi devi dire, Sarina, se sei stata attenta, eh? Così distinto direi che è un verso di un animale, ma quale non saprei. Non hai riconosciuto Renzi in tutto questo? No. Il tiro al piccione. Ci ho tentato di fare una costruzione, diciamo, un po' così, tra l'animalesco. Ero un po' confusa questa settimana, tra pitonesse e piccioni ho avuto... Vari animali, insomma. Vari veramente, animali devo dire. Nella settimana. Senti, ti volevo fare, sottoporre un altro interrogativo estremamente inquietante, Sarina. Allora, a proposito di crisi, il ministro dell'economia Saccomanni, tutto questo è successo nel giro di poche ore, Saccomanni ha detto: per quanto riguarda la ripresa si vede la luce. Immediatamente dopo, il presidente di Confindustria Squinzi ha commentato: io non vedo ancora la luce in fondo al tunnel, non la vedo. Ma il ministro Zanonato afferma per lo sviluppo economico: la crisi è grave, siamo al punto di non ritorno. Una cosa pientantissima. Poi due giorni fa, giovedì, ha detto: sono ottimista. In questa confusione generale, poi Grillo a un certo punto fa bene a dire: voglio vedere Napolitano, forse non l'ha fatto, diciamo, nei modi più opportuni, con i toni più adeguati. Poi alla fine Napolitano prima ha detto di sì, poi di no, si sono detti di no, di sì vicendevolmente, si vedranno mercoledì, però giustamente anche lui dice: dica al paese come stanno le cose. Che dici tu? Beh, io direi che questa è la cifra di questo governo, l'incertezza. L'incertezza che sta dando agli italiani sulle opinioni e sulle dichiarazioni che si fanno. Il famoso governo del fare, secondo me, dovrebbe parlare meno, perché sono proprio queste dichiarazioni che fanno, che gettano, credo io, nella disperazione, perché la stessa paura che hanno gli italiani, che addirittura hanno tagliato, riducono la spesa per il pane, per i generi primari, per la pasta, significa che le famiglie hanno paura, non riescono ad avere un minimo di speranza. Ora, se questo governo da 4 mesi sta a giorni alterni dicendo che l'IMU si toglie, l'IMU si rinvia, l'IMU la dobbiamo pagare, io immagino, e io sono un'italiana come tutti, che cosa pensino gli altri, no? Cioè, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci, non so, i 200 euro dell'IMU da parte perché la pagheremo a settembre? Forse per prudenza, forse meglio di sì. Perché... Esatto, appunto. Oppure possiamo finalizzare questi 200 euro, perché no, ai saldi, magari facendo un affaruccio. Che iniziano oggi, può far comodo. Che iniziano oggi e magari, insomma, i famosi... Sono calate le previsioni, no? Pare che quest'anno spenderemo al massimo ogni famiglia 230 euro, e allora le possiamo dedicare ai saldi? Ecco, questi ministri, perché poi sono i ministri che dicono uno il contrario dell'altro, è proprio questa incertezza. È questa incertezza che non ci possiamo permettere, siamo un paese in crisi. Per quanto riguarda gli industriali, io devo dire, sono stanca anche degli industriali che continuano a dire che non c'è ripresa, vorrei che anche loro, insomma, si rimboccassero le maniche e pensassero se effettivamente queste misure che il governo ha messo sul piatto dopo che Letta è tornato dall'Europa, con questi sgravi che ci sono per le assunzioni, possono essere effettivamente il volano di una ripresa o no? Perché gli industriali ce lo debbono dire, se anche questo, se sono misure che possono aiutare, che cosa bisogna fare, perché insomma ogni giorno ce n'è una, siamo ridotti a sentire solo parlare, vorremmo veder fare. Prima di la sentire, scusami, prego. No, dicevo la stessa cosa delle province, no? Ci hanno detto per 2 anni che tagliavano le province. È un palleggio continuo. Eccoci qua, le province non si possono tagliare, ma lo sapevamo dal primo giorno, perché è scritto nella Costituzione che l'Italia è divisa in regioni, province e comuni. Però dicono che adesso le fanno sparire il termine provincia dalla Costituzione. Immagino tutti questi bianchettini, cancellini che... Esatto, lo fanno col bianchetto che non si trova più neanche in cartoleria, infatti, perché oramai si fa tutto al computer. Quindi come faranno senza il bianchetto? Non so, troveranno un altro liquido, magari in Cina qualcosa si troverà del genere. Prima di sentire Maria dalla provincia di Verona e Idris da Treviso, anzi te lo chiedo dopo di cosa pensi di questo atto particolare che ha fatto la Presidente della Camera Boldrini, però prima sentiamo all'800 24 0024 Maria della provincia di Verona, sentiamo cosa hai da dirci. Maria, grazie dell'opportunità, grazie, è sempre un piacere parlare con te. Grazie. La mia notizia della settimana è il trattato economico euro-statunitense, che mi lascia parecchie perplessità, perché ho notato, ascoltando mass media di oltre confine, che è presentato in maniera diametralmente opposta. I mass media qua lo presentano come un vantaggio, sì. Oltre confine sottolineano che con questo trattato entrano in Europa dei prodotti che non hanno gli standard europei, che sono molto più severi di quelli statunitensi. È un modo per far rientrare dalla finestra quello che la legge europea ha fatto uscire dalla porta. Maria, questo è molto interessante, ti ringrazio, e vorrei effettivamente capire tu che cosa ne pensi, Serena Biraghi, perché effettivamente con questa storia di Snowden, l'asilo no, l'aereo di Morales che gira, eccetera, eccetera, soprattutto l'Europa ha pensato a questo momento delicato in cui per l'appunto si discute l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti ed Europa, ed effettivamente sui giornali italiani in questi giorni è stato presentato questa come una grande occasione anche per aumentare i posti di lavoro. Maria ci diceva che ha letto i giornali di altri paesi d'Europa dove invece la cosa è posta come negativa, nel senso che effettivamente se non hanno standard europei già si è fatta tanta fatica per raggiungere. No, certo. Ecco. Tu di che scuola sei di pensiero? Io credo che possa essere forse più semplice per lo scambio, ecco, di persone, per lo scambio di lavoro, per andare a lavorare in altri posti. Questo forse può essere più semplice, al di là del caso Snowden adesso, che lasciamo stare gli asili politici, eccetera. Ma dal punto di vista dei prodotti è sicuramente meno facile di come si presenta, perché noi effettivamente siamo molto più... limitativi, no? Abbiamo delle regole molto drastiche, direi, fortunatamente, perché soprattutto per noi italiani, se vogliamo difendere il nostro Made in Italy, che è la nostra ricchezza vera, forse quella dovremmo anche sfruttare ancora di più dal punto di vista economico, è chiaro che questi prodotti che entrano non sono all'altezza dei nostri prodotti, quindi una confusione di regole ci sarà sicuramente, e non sarà così semplice risolverla. Come ricordavi tu, anche per noi è stato tanto difficile adeguarci, no? Ci ricordiamo le famose, abbiamo scritto tanto sulla circonferenza delle zucchine, dei cetrioli, la carota che non doveva essere, perché erano regole europee e ci siamo attenuti con fatica, almeno a sentire i nostri coltivatori diretti. Quindi credo che non sarà così semplice, e spero che non sia così semplice, proprio per non contaminare le nostre specialità, diciamo, con quelle che vengono da fuori. Santi numi, viene da dire, no? Perché è una cosa che sta per compiersi, e poi si deve complicare, peggiorare le cose. Certo. Dietro ogni porta c'è qualche scheletro. Sentirei sempre il numero verde 800 24 0024 Idris da Treviso. Questo, sì, nome mi dice qualcosa. Idris, da dove vieni? Così, d'origine, dico. Dall'Algeria. Dall'Algeria, bene. Sì, due cose veloce rovetta. La prima, prima riguardo al Marchionni Boldrini. Sì. Intanto Marchionni deve fare la residenza qui in Italia per pagare le tasse come tutti noi, primo. E poi pretende di essere ricevuto da questo o da quello. Seconda, che riguarda Snowden. Snowden non le conviene venire in Italia perché hanno estradato una donna kazaka con una bambina di 6 anni e poi il caso Abu Omar, figurati se lo lasciano qualcuno qua, lo consegnano agli americani il giorno dopo. E ci sono inaffidabili le autorità italiane. Ti ringrazio Idris, sei stato chiarissimo. Prima di sentire la tua opinione, Serena Biraghi, sulla questione Boldrini, volevo leggere brevemente qualche messaggio dalla pagina Facebook della trasmissione Non ci sono più mezze stagioni. Tullio dice: la Boldrini ha sicuramente dimostrato sensibilità e attenzione verso il problema del lavoro in Italia e non credo abbia rifiutato un incontro con uno dei principali manager se questo avesse potuto aprire possibili accordi sulla questione. Dice: è possibile che effettivamente abbia davvero in agenda impegni istituzionali che da lei ritenuti prioritari. Nella lettera infatti si dichiara disponibile per altri appuntamenti, però bene ha fatto a chiarire da subito l'inaccettabilità di un meschino gioco a ribasso sui diritti. Bianca dice: avere fegato significa tenere testa anche a un aguzzino malefico come Marchionne. Davanti al nemico non si scappa, si combatte sempre se c'è la buona fede e la stima per la propria funzione, vedi il presidente Pertini. Rita: dico no a Marchionne, dice Rita. Gianluca scrive: deve andare a dire quello che pensa la Boldrini davanti a Marchionne. Floriano: la Fiat quando gli servono gli aiuti dello Stato italiano li ha chiesti e ottenuti, quando guadagna investe in editoria e altro, poi le auto le vanno a costruire all'estero, quindi fa bene Boldrini a non andare. Roberto scrive: gli frega granché a Marchionne della eventualmente presenza dell'inutile Boldrini, se vuole chiude a tutti e manda a casa, e con o senza Boldrini spero chiuda. Villanel dice invece: Boldrini io già la stimavo, ma adesso che ha scrive sfanculato Marchionne quasi la amo. Enrica: a me sembra che voglia fare la superdonna, a prescindere non è che mi convinca molto la sua presidenza, l'unica competente finalmente a un buon incarico è la Bonino. Wally invece dice: saggia decisione, super partes. Luigi scrive: sono dalla parte di Marchionne. Fiorenza: la paghiamo non per fare salotto, anzi alzi il lato B ed esprima il suo parere con dignità. Don Severino anche si è espresso, ma poi lo sentiremo dopo come al solito. Santina scrive: non capisco perché questa donna per me eccezionale non riscuota simpatia specialmente fra le donne italiane, e così via, molti altri messaggi. Per esempio Vela dice: Laura Boldrini ha avuto coraggio nel dire no a Marchionne. Tu che ne pensi? Io credo che abbia sbagliato, perché intanto questa gara a ribasso sui diritti lo trovo sbagliato, perché comunque non c'è solo la FIOM all'interno della Fiat, ci sono anche gli altri sindacati, quindi insomma bisogna avere rispetto anche per gli altri che sono magari dell'UGL, della CISL, di altri sindacati e che lavorano insieme a quelli della FIOM. E poi credo che invece la visita, come hanno fatto in precedenza altri ministri, sono andati, hanno visitato un'importante realtà industriale del nostro paese, e per quanto riguarda Marchionne, insomma, ora descriverlo come un aguzzino mi sembra un po' troppo. Marchionne è il manager di un'industria che ha le sue sedi anche all'estero, perché c'è un mercato globale che consente, se noi consentiamo di far venire qui i prodotti dall'estero possiamo anche delocalizzare, e la Fiat lo ha fatto, e quindi non vedo perché rispondere male a un invito, insomma non, senti, io non l'avrei fatto invece insomma. Sul fatto che qualcuno dice insomma, però la Fiat chiede continuamente ammortizzatori, dice attenzione potremmo chiudere questo stabilimento e quell'altro, però adesso in questi giorni insomma ha messo sul piatto parecchi soldi per prendere la quota, mi pare, maggioritaria del Corriere della Sera. Ma intanto la Fiat è un holding, quindi insomma lì ci sono varie branche, ha chiesto ammortizzatori sociali come hanno fatto tutti, aveva una situazione dei cassi integrati, ma non sono soltanto della Fiat, cioè in questi giorni stiamo sentendo altri fiori all'occhiello dell'industria italiana come la Indesit, come la Natuzzi, delle famose poltrone, e tutti hanno bisogno degli aiuti di Stato, gli verranno dati come sono stati dati alla Fiat. Poi gli investimenti nell'editoria fanno parte del gruppo, il gruppo non è soltanto auto, lo sappiamo da quando è nata la Fiat, quindi questo non lo metterei, diciamo così, in relazione, no? Forse parlo un po' sono un po' di parte forse, perché secondo me l'idea che la Fiat abbia deciso di aumentare il capitale in Corriere della Sera, quindi in RCS, significa che un grande si crede nell'editoria, crede ancora nell'editoria, in particolare nella carta stampata, e quindi sono soddisfatta di questa cosa, perché mi penso che sopravviveremo alla crisi, internet, al web, insomma. Riflessioni da Marte. Si è sentito da quassù, da Marte, in questi giorni, a un certo punto un suono insistente, un po' sordo, che proveniva da laggiù, dai vostri cieli. Puntando come sempre il fido telescopio verso il globo terracqueo, ho colto che si trattava di un aereo che ronzava qua e là. Sapete, come quelle mosche che cercano di atterrare da qualche parte ma vengono scacciate di continuo. Ecco, solo che la mosca non era una mosca, era un aereo un po' giù di morales, così pares, che momenti esauriva il carburante, andava giù come una peramatura, ma nessuno lo lasciava atterrare da nessuna parte, poiché si riteneva che avesse una talpa a bordo. Si vede che le talpe non sono particolarmente gradite, del resto effettivamente provocano certe voragini, queste talpe, certi smottamenti. Tutti quindi si sono compattati contro la talpa, anche gli italici, perché c'è da dire che da sfatare questo eterno luogo comune per cui fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, e basta, gli italiani sono fattissimi, nel senso che sono tutt'uno, uniti, omogenei da nord a sud e da sud a nord, ma forse soprattutto la classe politica italica essere fatta e strafatta, nel senso già ampiamente compiuta, compatta e affine, fine a se stessa. Ne volete la prova lampante? Dopo la Lombardia e il Lazio in testa, in modo eclatante, e poi la Basilicata e altre regioni, ora tocca alla Campania. Nuovo scandalo rimborsi per eletti vecchi e nuovi in Campania, pagati dalla regione con i soldi pubblici, ergo quelli dei contribuenti, anche sigarette, occhiali da vista, cene, giocattoli, DVD e tinture. Speriamo almeno se le siano fatte bene queste tinture e non quelle che colano, no? E assumono quelle tonalità alquanto improbabili, se no oltre al danno la beffa. Vi ricordate negli altri casi, oltre sempre alle cene sontuose, che quelle non stancano mai, Nutella, penne Mont Blanc, diamanti, lecca lecca e salsicce di Norimberga? È questione di gusti, semmai, ma il risultato non cambia, è uguale e unitario da nord a sud. I 5 Stelle intanto questo giovedì hanno fatto il Restitution Day, in cui hanno restituito le eccedenze della diaria. Ma di tutti questi milioni e miliardi invece rubati nei decenni agli italiani, ancora sino a oggi e probabilmente anche domani, ci sarà mai un Restitution Day? Te lo dico con le buone, ma fa presto. Te lo dico con le buone, però insisto. Sono andato a piedi nudi troppo spesso e non posso farlo anche adesso. Te lo dico con le buone, ma fa presto. Restituiscimi i miei sandali e non portarmi nei vicoli. Io sono un tipo senza scrupoli e se mi arrabbiano rispondo più di me. Restituiscimi i miei sandali e le sue cartabelle inutili, che qui sta andando tutto a rotoli e io rispondo più di me. Eccomi qui, veramente pochi minuti, Roberta Giordano sempre con voi, sino più o meno alle 15, con Sarina Biraghi, oggi opinionista estemporanea, direttrice del quotidiano Il Tempo, e le vostre telefonate 800 24 0024. Mi pare sia caduta Roberta da Bologna, allora corro subito verso Luigi da Imperia, prima che mi caschi anche lui. Luigi. Ah, scusi. Scusa Roberto. No, per cosa? Vi scuso io. No, perché ripeto la stessa cosa. Scusa, stai dicendo? Intanto una curiosità sulla parola crisi, che viene pronunciata miliardi di volte in un modo, secondo me, non so come dire, fantomatico. Vi do l'esempio. Sì. Ci fu la famosa crisi del 29 negli Stati Uniti. Come la chiamavano? No, come la chiamavano crisi, ma subito nel 33 uscì una canzone nel 33, sì, intitolata Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? È benissimo, sì. È un verso, dice semplicemente, il più interessante: se parecchi non facessero la parte del leone, non ci sarebbe nessuna crisi. E questa è la spiegazione della crisi. Cioè che abbiamo troppi leoni e alcune pecore, sì, qual sì, è la... troppi, anche minoranze, sì, ma anche troppi. E poi l'altro tema è quello che non cambierà mai niente, ma mai, è quello che se a scuola non martellano, ma non solo le cose, devono martellare con la filosofia etica, morale e politica, leggere Platone, Aristotele, Cicerone. E una curiosità, c'è Plutarco, che ha scritto un librettino, 5 euro, un'ottantina di pagine, in cui addirittura parla di trasparenza e ci racconta un fatto curioso. Un tribuno della plebe romano aveva un vicino carpentiere che ha detto, il carpentiere gli fa ti faccio una casa ben fatta, che mi sembra trasandata questa, per 5 talenti. Quello gli fa il tribuno della plebe: io te ne do 10 se tu mi fai una casa trasparente, in modo che tutti vedano da fuori quello che faccio io. Nello stesso libretto si parla del guaierismo in tutto questo, eh? Dell'esibizionismo. Comunque, Luigi, ho capito che tu sei per le alte letture, per carità, no? E queste sono importanti, naturalmente. C'è anche, però, ci sono anche tante altre questioni, e l'educazione, abbiamo detto, per tante cose, anche solo per la cultura della parità, per contrastare prima o poi i femminicidi. Cioè, la scuola è fondamentale per una formazione completa e civica e civile dei cittadini, dei futuri cittadini. Però adesso, prima di perderci un po' in questi vortici di discussioni, sentiamo cosa ha da dire Augusto da Genova. Sono signora Giordano, complimenti, però, mi fa piacere parlare con Radio 24. Augusto, mi fa piacere parlare con te, non mi chiamare, ti prego, signora, che mi viene l'ueite, però. Va bene, grazie. Come vuoi. Bene. Comunque, sì. Io tra l'altro le rispondo sul monologo che ha fatto sulla restitution, un day che non ci sarà mai. Sì, infatti il mio argomento era proprio quello di pubblicizzare il più possibile a livello informativo la piccola promessa che fecero all'inizio della campagna elettorale del Movimento 5 sì. Stelle di restituire almeno fatto. Una parte della diaria e anche il rimborso elettorale, che sono ben 42 milioni, cosa che purtroppo vedo che negli organi di informazione spesso vengono così, come dire, messi in quarta pagina con due righette, forse chissà perché, per tentare di sottovalutare quel poco di buono che questi ragazzi hanno fatto. Voglio dire, non è che siano degli grandi intellettuali politici, perché non hanno esperienza, però onestamente hanno fatto qualcosa che nessun parlamentare, nessun gruppo politico da 50 anni, da 60 anni, dal 46 a questa parte ha mai fatto. Anzi, i parlamentari, i gruppi politici hanno cercato sempre di avere qualcosa in più da sprecare, come dimostrano poi i fatti giudiziari. Sei stato chiarissimo. L'unica cosa, appunto, lei l'ha fatto questo e mi fa piacere, però tantissimi organi di informazione a livello nazionale, importanti, chissà perché sottovalutano anche queste cose. No, ma mi pare che se ne sia parlato. Augusto, a proposito del precedente di moralità, di etica, certo, che dovrebbe essere la base fondativa di un politico. Grazie. Bene, grazie a te, Augusto. Ancora, signore. Sarina, tu hai apprezzato questo gesto? Sì, noi l'abbiamo apprezzato, abbiamo dato anche grande rilievo, l'abbiamo messo anche come fotograficamente ben grande nella nostra prima pagina, così come oggi noi abbiamo aperto il giornale su i rimborsi ai partiti. Ecco, che questo ti voglio chiedere. Esatto, che arriveranno a fine luglio, sono 91 milioni. Che fanno, li rigettano o se li prendono? Assolutamente no, ecco. li prendono, non fanno neanche, diciamo così, la finta di dire no, ma non proprio tutti. Forse vedremo, no, loro li prendono, sostenendo che loro hanno già fatto delle spese e i soldi servono. Poi ci sono i saldi, sì. Prego? No, poi ci sono i saldi, uno magari va in giro per... Certo, sì, quei 91 milioni. E saranno messi in crisi ancora una volta dal Movimento 5 Stelle, che il 22 luglio discuterà alla Camera proprio una mozione con la quale chiedono di rinunciare a questi fondi e di bloccare l'erogazione dei rimborsi ai partiti. E quindi lì gli altri partiti dovranno pronunciarsi, quindi vedremo con quale faccia, direi, no? Con quale faccia? Con quale faccia questi famosi rimborsi, che poi non sono rimborsi, ma sono degli autentici finanziamenti che noi italiani abbiamo già con un referendum bocciati, ma come al solito in Italia una cosa esce dalla porta e rientra dalla finestra, no? Quindi questi soldi i partiti se li prendono, voglio dire che gli italiani non riescono ad arrivare alla fine del mese. Altro atto che mi sembra, mi rifaccio all'ascoltatore di poco fa, sulla trasparenza, forse oggi questo questa proposta del ministro Patroni Griffi, che poi non è una proposta, è una richiesta alla quale gli eletti, i politici eletti a febbraio avevano dato il consenso. Patroni Griffi ha chiesto a tutti i ministri entro il 28 luglio di pubblicare i loro redditi. E insomma, i redditi, le spese che affrontano per i viaggi, le missioni, diciamo, politiche. Quindi sì, lo vedo anche soldi... adesso riportato sul Corriere Online. Scusa, se non sono sul tuo giornale in questo momento, ma no, ma appunto, ma dice trasparenza. Di oggi, sì, no? Sì, quindi... Palazzo Chigi e l'appello ai ministri pubblichino online i loro redditi. Ecco, peraltro anche delle mogli e volendo, se o dei mariti fino al secondo grado, sono d'accordo anche del secondo grado, perché poi sappiamo che ognuno può trovare, ecco, il modo di fare, no? Ecco, certo. Quindi vediamo anche questo, perché anche questo mi sembra trasparente, mi sembra anche onestà da parte di chi è politico, che se prima faceva un'altra professione ed è ricco di suo, insomma, niente, cioè non ce l'abbiamo con dire. I diritti, certo, sia chiaro. Certo. Però la trasparenza e l'onestà di comportamento mai come in questo momento, ecco, questo momento, come diceva il signore, usiamo la parola crisi, è un momento difficile, lo vogliamo dire, è un momento difficile per tutti, a tutti i livelli, forse anche per i ricchi, che oggi non sono ricchi come lo erano 4-5 diciamo anni fa. Qualche sonno tranquillo se lo possono fare. Loro fanno dei sonni più tranquilli. Ecco, in questo momento si chiede un po' più di correttezza, non chiamiamola etica perché forse è un parolone. Ecco, su questo argomento, Sarina, quindi con l'IMU come la mettiamo? È giusto levarla completamente? Il Fondo Monetario Internazionale, hai sentito, dice no, l'IMU deve restare. Qualcuno dice, questo è un aiutino che sa come anni dietro le quinte ha chiesto al Fondo Monetario. Dillo tu, Fondo Monetario, che dobbiamo tenerla l'IMU così, non mi tocca dirlo a me, al governo Letta, eccetera. Secondo te va levato, come vuole soprattutto il PD, va levata l'IMU o va resa progressiva a seconda delle, insomma, ognuno del reddito e del questa patrimonio. Rata dell'IMU, come era stato promesso, perché al di là della campagna elettorale su cui il PDL aveva sbandierato sull'IMU, oramai è un impegno del governo, cioè questo governo di larga intesa si è impegnato su un programma, e in questo programma c'era l'abolizione della prima rata dell'IMU, quindi ce l'aspettavamo tutti, no? Il compimento di questa cosa, come ci aspettiamo, perché questo governo ha anche detto che farà delle riforme, ha anche detto che abbasserà la pressione fiscale, che è quella che tutti stanno aspettando, dopo che ieri ultimo bollettino di Banca Italia ci dice che siamo al 44% di pressione Paese fiscale, tassatura. Cioè paghiamo veramente troppe tasse. Quindi credo che in questo momento la rata dell'IMU io ritengo che si dovrebbe togliere. Invece, niente, è caduto anche Walter dalla provincia di Imperia, tutte come meteoriti. Roberto da Firenze, prima che anche tu mi scivoli via. Roberto? Va bene. Sei pronto? Sì, sei disponibile? Certo. Prego. Ciao. Ciao Roberto. Io avrei voglia di lanciare una piccola idea di soluzione. Siccome si fa un gran parlare di clero, di questo, di quell'altro. Di clero? Di clero, sì, di persone, quella istituzione che è la Chiesa, eccetera, cosa hanno fatto di bello, di brutto, no, eccetera. Soprattutto di brutto. Io direi questo, siccome alle persone anziane e agli altri ne hanno tolto quasi un credo, tutte queste cose brutte. Gli scandali, tu parli degli scandali? Sì, esatto. Io direi che loro, per dare una mano a se stessi, soprattutto anche agli italiani, potrebbero prendere un millino di miliardi dalle loro casse molto profonde e risanare l'operazione Italia. Quindi in questo modo chi può prendere 91 milioni, chi può prendere 10, facciano le loro cose, tanto le fanno sempre. Il politico è un rifugio, un peccatorio per chi non ha voglia di far nulla, e quindi secondo me che la Chiesa rimetta a posto tutto. Visto che quando si va in chiesa a fare le offerte non è che ci facciano né lo scontrino né la fattura, giusto? Roberto, ti ringrazio di questa lettura tua molto originale. In realtà poi è il pensiero di molti, che qualche volta, insomma, la Chiesa, il Vaticano, con i suoi grandi possedimenti, il suo enorme patrimonio, potrebbe allungare, diciamo così, qualche biglietto. Altri dicono che si tratta di populismo. Su questo tema Beh, ma noi l'avvertiamo molto, forse perché il Vaticano è a Roma, quindi ci sentiamo, come diceva il Signore, noi diretti, no? Beneficiari dovremmo essere. Io credo che la Chiesa aiuti soprattutto i più bisognosi, forse le missioni nel mondo della Chiesa hanno questo spirito e questo obiettivo. Quindi già fa, dici. E certo, quindi aiutano chi è più in difficoltà, non certo i governi. Quindi ritengo che è difficile che la Chiesa possa aprire il portiere per farci un bonifico, per fare un bonifico a Palazzo Chigi che aiuti i a togliere la rata dell'Imu. Riacciuffo subito allora Walter della provincia di Imperia. Walter, eccomi qua. Aveva ceduto buongiorno. La linea prima, eccoci qua, teniamola salda. Prego Walter. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Beh, scusa Walter, Walter, sì. Lo dici come automatismo o sei convinto di quello che dici? Non so. Sono molto convinto perché seguo sempre Radio 24 Ore nelle zone in cui riesco a riceverla bene. Mi raccomando, ogni sabato alle 14 ricordati questo appuntamento, vero? Assolutamente, certo. Sì. Beh. Prego Walter, allora, volevo chiederti un riassunto delle puntate precedenti, ma il tempo è poco. Vai. No, io volevo intervenire sul discorso di dei pochi fatti che avvengono col nostro governo e mi riferisco in particolare alla riduzione della spesa pubblica. Cioè, in pratica, un atteggiamento pensiano che anziché percorrere delle strade molto lunghe, tipo l'abolizione della provincia, che prevedono una revisione della Costituzione, quindi tempi molto molto lunghi, sarebbe secondo me molto più efficace introdurre un concetto di gestione stile privato delle organizzazioni pubbliche. Ad esempio, se a tutti i dirigenti degli enti pubblici fosse dato un budget di riduzione della spesa del 10% rispetto all'anno precedente, con la piena responsabilità, sapendo che loro rischiano, come rischiano i dirigenti delle aziende private. Se noi dirigenti di aziende private non rispettiamo il budget, corriamo il rischio di essere allontanati dalla nostra azienda. Quindi capisce che quando ci si trova di fronte a dei rimborsi che non hanno senso, dove ci si rimborsa la bambolina della Barbie, piuttosto che ci sono delle consulenze che non hanno giustificazione in un periodo come questo, se tutti questi dirigenti venisse affidato questo compito, secondo me il risultato sarebbe molto più immediato, non prevede gli sconvolgimenti da un punto di vista di struttura di come è organizzato lo Stato oggi, però sono risultati nel breve. Ho capito, responsabilizzazione e trasparenza. Roberto, sei stato chiaro e ti ringrazio, sentivo che viaggiai, intanto io comincio a correre perché sono gli ultimi minuti e direi, prima di sentire Roberta Bologna, speriamo di riuscire adesso che ti hanno ripreso, il nostro appuntamento immancabile con Don Severino da Potenza e i suoi telegrammi proprio. Don Severino, ciao. Ciao Roberta, velocissimo. Sì. La stampa e la televisione non ha molto sottolineato una cosa importante, cioè il viaggio del Papa a Lampedusa, sì, ne hanno parlato, i vari cambiamenti, però non ha sottolineato che il ministro degli interni aveva chiesto di partecipare, il Papa diplomaticamente ha detto che non vuole politici intorno. Ecco, io credo che questo deve essere molto sottolineato, dato che si parla di governo, di crisi, eccetera. Credo che purtroppo, anche se è benevola, forse sarà proprio questo Papa a svegliare il nostro governo. Staremo a vedere. Grazie Don Severino. E adesso invece ci accompagniamo verso la parola della settimana con la linguista Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, io direi, visto che chiedeva qualche ascoltatore di dare maggiore risalto, ma ne abbiamo dato, ha dato anche i giornali, diceva anche Serena Biraghi, la parola diaria. Diaria, certo, sì, se ne parla molto in questo periodo e in questi giorni ancora di più. Allora, intanto la parola diaria significa, lo ricordo, somma spettante al prestatore di lavoro come rimborso spese per ogni giorno di lavoro svolto fuori sede. Questo è il significato generale. Tra l'altro la parola non è certamente recente, nella lingua italiana la troviamo per la prima volta nel 1798, niente meno che negli atti delle assemblee della Repubblica Cisalpina. Deriva dal latino diaria, che è il neutro plurale di diarium, il latino diarium, che significava razione giornaliera. E come del resto la parola diario, nel significato che usiamo normalmente, no? Il registro di annotazioni giorno per giorno, assolta, deriva dal latino diarium. Insomma, parole all'origine molto antiche, addirittura latine, latine che hanno assunto significati nuovi nella lingua italiana e che fanno discutere. Diaria in particolare, ecco, il dubbio è: ma chi riscuote una diaria? Lo scrive nel proprio diario? Con questo dilemma ci lasciamo. Grazie Paolina Della Valle. Questa nota di umorismo. Roberta da Bologna riesce a essere estremamente sintetica. Roberta, scusami, abbiamo poco tempo. Allora, io mi sono... Posso parlare? Sì, sì, sintetica, sì. Allora, io mi sono collegata prima. Non so chi è che parlava degli industriali. Io non sono un industriale. Sono un piccolo artigiano. Okay? Sì. Dicevano che gli industriali non hanno più scuse. Benissimo. I grossi industriali si assumono, hanno degli sgravi. E noi piccolini che sgravi abbiamo? Che aiuti abbiamo dallo Stato? Come solito, niente. Io ho le mie ragazze che le ho dovute mettere in cassa integrazione e da gennaio che come soci non prendiamo il prelievo contro utile, stiamo andando a intaccare le nostre riserve, però siamo considerati comunque sempre dei disonesti, degli evasori. Per noi lo Stato cosa fa? Io lavoro in Riviera. Se venivate giù ieri sera in Riviera, c'era la notte rosa. La notte rosa, sì. Lungo le strade, tutti gli extracomunitari vendevano cappelli, cose per rosa. Quella non è evasione fiscale? Questa è una questione annosa, annosa, Roberta. Purtroppo ci sarebbe molto da parlarne, però adesso devo stringere e chiedere a Sarina Biraghi, capisco anche insomma, l'indignazione di Roberta. Sarina, intanto, velocissimamente, questa sentenza della Cassazione che ha condannato un uomo di 71 anni a pagare 1000 euro di multa, anche se poi sono stati condannati per l'indulto, perché aveva detto davanti ai carabinieri che avevano fatto una multa, questo è proprio un paese di merda, insomma, è stato vilipendio alla nazione, quindi poi confermato appunto dalla Cassazione, era stato condannato. Ti sembra una follia questa? O perché insomma, follia detta così è una follia. Forse dovremmo avere come italiani più rispetto del su questo, senza paese. Dubbio, senza dubbio, ma ci sono cose ben più gravi, per cui non è più gravi, sicuramente. Scappa tanti, motivo, no? Insomma. Non è che puoi condannare un 71 anni. Certo, invece, un'altra cosa che vedevo adesso, perché mi sa che non facciamo in tempo a parlare di Renzi ulteriormente, una frase, lo saprai, che è stata intercettata dal capitano, che il comandante che guidava la Jolly Nero, sai, la nave che ha avuto l'incidente al porto di Genova con la torre crollata e i morti che sono stati. Bene, mi sembra schettino 2 la vendetta. È stata intercettata la frase in cui diceva niente, buttato giù la torre dei piloti, saranno tutti morti. Io dico, in che mani siamo? Cioè, tra classe politica, classe dirigente, piloti, chi ci guida, chi dovrebbe guidarci, che ha un ruolo di grande responsabilità? La domanda è inquietante, angosciante, in che mani siamo, Sarina Biraghi? È il degrado del nostro paese, il declino di un paese, secondo me, il declino di una civiltà questa, perché non si può pensare appunto di essere più o meno responsabili di un incidente del genere, dove appunto ci sono dei morti, e restare, come dire, come se avessimo fatto cadere il bicchiere di latte, se abbiamo fatto un danno grave. E se siamo così insensibili, credo che non è solo questione di crisi economica, è qualcosa di più, è una crisi di valori, è una crisi di interessi, è una crisi di solidarietà. E su questa, di Sarina Biraghi, su questa nota ottimistica io ti ringrazio, ti saluto, vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione sul sito, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, e da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.